solo lì. La romana ricona borhat maho manut lomo tu si doli naga berokat ni. Sohu boto bosir nahasia hacit niro hami huma nabe dio seho sune paratai malauro hati di mahko sirnahasia hacit niro hami huma nabe dio seho sune paratai malang roh hati di mahkot.